ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Dopo la prima settimana dedicata ai lavori domestici e a raccattare fascine e rami secchi, volevo dare un'occhiata ai dintorni. La capanna giaceva infossata nell'ampia conca verde dei prati alpini, tra due ripide creste di monti che non potevo scalare a causa delle vertigini. Inoltre, non me la sentivo di affrontare quei sentieri da camosci. Tornai dunque a far visita al punto dal quale si vedeva il panorama per osservare il territorio col cannocchiale. Mai vidi salire fumo o qualche movimento sulle strade. In realtà non riuscivo più a distinguere chiaramente nemmeno quelle. Dovevano essere in parte ricoperte da erbacce. Cercai di orientarmi servendomi della carta stradale di Ugo. Mi trovavo all'estremità settentrionale di una lunga catena montuosa che si estendeva verso sud-ovest. Le due valli che dal luogo in cui mi trovavo si diramavano verso la regione prealpina le avevo già visitate. Dopotutto abitavo in una delle due. Questo territorio, tuttavia, costituiva solo una parte del massiccio alpino. Fin dove si estendesse la parte accessibile a sud-ovest, non potevo stabilirlo. Inoltre, non dovevo assentarmi troppo tempo da casa e perfino con l'ince l'impresa mi sarebbe parsa rischiosa. Se tutto il massiccio era libero, doveva comprendere solo delle riserve affittate e quindi dall'accesso vietato, altrimenti proprio il 1° maggio vi sarebbe confluita una folla di gitanti, i quali mi avrebbero da tempo scovato. Per ore studiai le creste dei monti e le fenditure delle valli che si aprivano davanti a me, senza scoprire traccia di vita umana. O la parete si snodava attraverso le montagne, oppure in tutto il massiccio esistevo effettivamente solo io. Quest'ultima ipotesi sembrava poco probabile, ma non era impossibile. Alla vigilia d'un giorno di festa tutti i boscaioli e i cacciatori potevano benissimo essere rimasti a casa. Mi pareva inoltre che nella mia riserva continuassero a penetrare dei cervi mai visti prima. Un tempo tutti i cervi mi sembravano identici. Nel corso d'un anno avevo comunque imparato a distinguere i miei dagli altri. Questi forestieri dovevano pure arrivare da qualche luogo. Almeno una parte del massiccio montuoso doveva essere rimasto libero. Sulle rocce calcaree vedevo ogni tanto dei camosci, anche se non molti. La rogna ne aveva fatto scempio. Decisi di intraprendere qualche breve giro di ricognizione e nella regione dei pini nani trovai un sentiero sul quale osai avventurarmi. Incamminandomi alle 6, dopo la mungitura mattutina, potevo inoltrarmi per 4 ore tra le montagne, ritornando ancora con la luce del giorno. Quei giorni legavo Bella e il torello al piolo, ma la preoccupazione per loro mi seguiva ovunque andassi. Penetrai all'interno di riserve a me totalmente sconosciute. Trovai un paio di capanne di caccia e ricoveri per boscaioli, dai quali portai via alcuni oggetti ancora utilizzabili. La scoperta più felice fu un piccolo sacco di farina rimasta miracolosamente asciutta. La capanna nella quale lo recuperai si trovava in una radura molto soleggiata. La farina, per di più, era stata rinchiusa in un armadio. Trovai inoltre una confezione di tè, del tabacco scadente, una bottiglia di alcol, dei vecchi giornali e un pezzo di lardo ammuffito pieno di vermi che lasciai sul posto. Tutte le capanne erano soffocate dai cespugli e dalle ortiche. In alcune aveva piovuto dal tetto e si trovavano in cattivo stato. Tutta l'impresa aveva qualcosa di spettrale. Nei pagliericci sui quali solo un anno prima avevano dormito degli uomini frusciavano i topi. Ora i padroni delle vecchie capanne erano loro. Avevano rosicchiato e divorato qualsiasi provvista che non fosse tenuta sotto chiave. Perfino le vecchie scarpe e i cappotti avevano addentato. E si sentiva odore di topi, un odore acre e sgradevole che invadeva ogni capanna, scacciando quello consueto di fumo, uomini sudati e lardo. Perfino l'ince, sempre così pieno di zelo all'inizio di ogni ricognizione, sembrava depresso appena mettevamo piede in una capanna e si affrettava a tornare all'aperto. Mangiare in una di quelle capanne mi ripugnava e così consumammo i nostri frugali pasti freddi sopra un tronco qualsiasi, mentre Lince beveva i ruscelli che sempre scorrevano nelle vicinanze delle baite. Ben presto ne ebbi abbastanza. Sapevo che non avrei mai trovato null'altro all'infuori di una selva di ortiche, odore di topi e desolati focolari spenti. In un giorno di calma di vento stesi la farina, questo rinvenimento prezioso, su un panno al sole, non che fosse umida, ma pareva anch'essa impregnata di un leggero odore di topi. Dopo averla lasciata per un giorno all'aria e al sole, mi sembrò commestibile. Questa farina mi aiutò a superare le settimane fino al successivo raccolto di patate. Impastandola con del burro e del latte, ne preparai alcune focacce sottili in una padella di ferro. Il primo pane da un anno. Fu un giorno di festa. Anche Lince, al diffondersi di quella fragranza, sembrò ricordare delizie trascorse e io, naturalmente, non fui capace di lasciarlo a bocca asciutta. Un giorno, mentre sedevo sullo spiazzo dal quale si vedeva il panorama, mi parve di scorgere in lontananza del fumo levarsi tra gli abeti. Fui costretta ad abbassare il cannocchiale perché mi tremavano le mani. Appena mi fui ripresa, tornai a guardare in quella direzione. Ma non vidi più nulla. Guardai fisso attraverso le lenti, fin quando mi lacrimarono gli occhi e tutto si dissolse in una macchia verde. Aspettai per un'ora e ritornai sul posto anche nei giorni seguenti, ma non vidi più il fumo. O mi ero illusa, oppure il vento, essendo una giornata di fön, aveva dissipato il fumo. Non lo saprò mai. Infine me ne tornai a casa col mal di testa. Lince, che aveva pazientato accanto a me tutto il pomeriggio, doveva considerarmi una noiosa mentecatta. Lo spiazzo non gli piaceva affatto e cercava sempre di convincermi a scegliere sentieri diversi. Dico convincermi perché non trovo parola più calzante per il suo atteggiamento. Si piantava davanti a me, spingendomi in un'altra direzione, oppure mi precedeva di qualche passo con fare allettante per voltarsi verso di me come a incoraggiarmi. Ripeteva questo gioco fino a quando mi arrendevo o capiva che non era possibile convincermi. È probabile che quel luogo non gli piacesse perché doveva restarvi seduto immobile mentre io non gli prestavo attenzione. È anche possibile che avvertisse quanto quello scrutare attraverso il cannocchiale mi facesse scivolare in uno stato d'animo depresso. Talvolta avvertiva il mio umore ancora prima che io stessa ne fossi cosciente. A lui non farebbe certo piacere vedermi seduta in casa giorno dopo giorno, ma la sua piccola ombra non ha più la forza di spingermi su altri sentieri. Lince è sepolto sull'Alpe, sotto il cespuglio dalle foglie verde scuro, che emanavano un delicato profumo quando le stropicciavo tra le dita. Esattamente nel punto in cui aveva fatto il suo primo pisolino al nostro arrivo sull'Alpe. Anche se non aveva altra scelta, più della sua stessa vita non poteva sacrificare per me. Dopotutto, era l'unica cosa che possedesse, una breve, felice vita di cane. Migliaia di odori stimolanti, il calore del sole sul pelo, fresca acqua di fonte sulla lingua, l'ansimante caccia alla selvaggina, il sonno al caldo nella nicchia della stufa quando il vento invernale infuriava attorno alla casa, una mano ad accarezzarlo e la dorata, meravigliosa voce umana. Mai più vedrò il prato dell'Alpe nella scintillante luce del sole, mai più aspirerò il suo profumo. Per me l'Alpe è perduta, non vi tornerò mai più. Dopo aver rinunciato alle escursioni nelle riserve sconosciute, scivolai molto lentamente in una specie di apatia. Cessai di angustiarmi e presi l'abitudine di sedere sulla panca dinanzi alla capanna, semplicemente a guardare l'aria turchina. Mi spogliai completamente della diligenza e dell'operosità per lasciare posto a una pacifica inerzia. Sapevo bene come tale condizione potesse diventare pericolosa, ma non me ne importava più molto. Il fatto che fossi costretta a vivere accampata come durante una rustica vacanza estiva non mi infastidiva più. Il sole, la vasta distesa del cielo sopra il prato e il profumo che saliva dall'erba mi trasformarono lentamente in una donna a me sconosciuta. In quel periodo probabilmente non prendevo appunti, anche perché tutto mi appariva leggermente irreale. L'Alpe era situata fuori dal tempo. In seguito, durante la finagione, quando tornavo dall'umido Averno della Gola, mi sembrava di approdare a un paese che con il suo arcano mi liberava da me stessa. Tutti i timori e i ricordi restavano laggiù, sotto gli abeti cupi, per tornare ad assillarmi a ogni discesa. Era come se il prato emanasse una droga soave che si chiamava oblio. Dopo aver vissuto 3 settimane sull'Alpe, un giorno mi feci coraggio e scesi a controllare il campo delle patate. Era il primo giorno grigio e freddo dopo un lungo periodo di bel tempo. Lasciai Bella e Toro nella stalla, forniti d'acqua e di foraggio fresco, e rinchiusi Tigre nella capanna. Avevo provvidamente riempito la sua cassettina di terra, lasciandogli della carne e del latte. Lince, come sempre, mi seguì. Raggiunsi lo chalet della riserva verso le 9 di mattina. Non so cosa avessi temuto o sperato. Tutto era assolutamente immutato. Le ortiche erano cresciute e formavano un intrico sopra la concimaia. Entrando in casa, vidi subito sul mio letto la piccola cavità familiare. Girai intorno alla casa chiamandola, ma la gatta non venne. Del resto, non ero sicura che quell'impronta non si trovasse lì già da maggio. Così lisciai accuratamente il letto e misi un po' di carne nella scodella dei gatti. Lince annusò il pavimento e la gattaiola. Ma potevano anche essere vecchie tracce quelle che stava seguendo. Spalancai tutte le finestre anche nella dispensa e lasciai circolare l'aria fresca attraverso la casa. Lo stesso feci nella stalla. Poi andai a ispezionare il campo. Le patate avevano germogliato bene e quelle piantate senza concime erano davvero un poco più basse e di un verde meno intenso. La gramigna, grazie alla siccità prolungata, non era troppo rigogliosa. Decisi quindi di attendere la prossima pioggia per sradicarla. Anche i fagioli avevano preso ad avvolgersi lungo i bastoni. L'erba nel prato accanto al ruscello era meno fitta dell'anno precedente. Aveva urgente bisogno di pioggia. Al taglio del fieno, d'altronde, mancavano ancora alcune settimane e dopo un acquazzone avrebbe potuto riprendersi rapidamente. Alla vista di quel grande prato scosceso, fui sopraffatta dallo scoramento. Non riuscivo ad immaginare come avrei potuto venirne a capo, per di più dopo una lunga marcia per arrivare sul posto. Già l'anno prima, senza quel lungo cammino, la fatica mi aveva quasi stroncata. Mi era incomprensibile come mai sull'Alpe non ci avessi mai pensato. Era strano. Appena scendevo a valle, pensavo all'Alpe quasi con timore e ritrosia. Sull'Alpe, per contro, non riuscivo a immaginare come si potesse vivere nella valle. Era come se fossi composta da 2 persone del tutto diverse, delle quali una poteva vivere solo nella valle, mentre l'altra tornava a rifiorire sull'Alpe. Tutto questo mi allarmava leggermente perché non riuscivo a capirlo. Guardai attraverso la parete. La casetta era completamente ricoperta dai cespugli. Non riuscivo a vedere il vecchio. Doveva trovarsi disteso dietro la muraglia di ortiche che ricopriva la fontana. Il mondo, così mi parve, veniva lentamente inghiottito dalle ortiche. Il ruscello s'era ridotto a un rivolo per la siccità. Le poche trote nelle pozze si muovevano appena. Quell'estate godevano di una tregua e potevano riprendersi. La gola era umida e buia come al solito. Non era cambiato nulla. Piovigginava appena e una bruma sottile stagnava tra i faggi. Non c'era una sola salamandra. Probabilmente dormivano sotto le pietre umide. Quell'estate non ne avevo ancora vista, solo delle lucertole verdi e brune sull'Alpe. Una volta Tigre ne aveva uccisa una con un morso e l'aveva deposta ai miei piedi, come faceva abitualmente con tutte le sue prede. Cavallette gigantesche, coleotteri e mosche iridescenti. La lucertola era stata il suo primo grande successo. Alzò verso di me uno sguardo speranzoso. La luce si rifranse nei suoi occhi dorati. Fui costretta a elogiarlo con qualche carezza. Cosa avrei dovuto fare? Non sono il dio delle lucertole e nemmeno quello dei gatti. Sono uno spettatore che farebbe meglio a non immischiarsi affatto. Talvolta non riesco a trattenermi e recito un po' con la parte della provvidenza. Salvo un animale da morte sicura, oppure sparo a un capo di selvaggina perché mi occorre la carne. Ma il bosco rimedia facilmente i miei pastrocchi. Un nuovo capriolo si fa adulto, un altro animale corre incontro alla morte. Non sono una guastafeste da prendersi troppo sul serio. Le ortiche accanto alla stalla continueranno a crescere anche se le sradicassi 100 volte e vivranno più a lungo di me. Hanno tanto più tempo di quanto ne abbia io. Un giorno io non sarò più e nessuno falcerà il prato. Il sottobosco prenderà il sopravvento e più in là il bosco avanzerà fino alla parete, riconquistandosi il terreno sottrattogli dall'uomo. Ogni tanto i miei pensieri si aggrovigliano ed è come se il bosco allungasse le sue radici dentro di me per pensare con il mio cervello i suoi vecchi eterni pensieri. E il bosco non vuole che gli uomini ritornino. Allora, durante la seconda estate, non ero ancora giunta a questo punto. I confini erano ancora tracciati nettamente. Mi è difficile, scrivendo, tener distinto il mio vecchio io da quello nuovo. Questo mio nuovo io, di cui non sono certa che non venga lentamente riassorbito da un noi molto più vasto. Eppure, la trasformazione era avviata già allora. La colpa era dell'alpe. Nel silenzio ronzante del prato sotto la vastità del cielo era quasi impossibile restare un io singolo e separato, una piccola vita cieca e caparbia restia a inserirsi nella grande comunità. Un tempo una vita simile mi riempiva di orgoglio, ma sull'alpe mi sembrò tutto un tratto ridicola e meschina, un nulla pieno di arie. Dalla mia prima escursione allo chalet di caccia, riportai sull'Alpe l'ultimo zaino pieno di patate insieme agli enormi pigiami di flanella di Ugo. La notte il freddo si faceva sentire e rimpiangevo la mia calda trapunta. Verso le 5 raggiunsi la capanna, grigia e lucente di pioggia. All'improvviso ebbi l'inquietante sensazione di non appartenere più veramente a nessun luogo. Dopo qualche minuto, comunque, questo turbamento si dissipò e tornai a sentirmi completamente a casa sull'Alpe. Tigre mi accolse con un miagolio furioso. Mi passò accanto e sfrecciò all'aperto. La cassetta con la terra era intatta e aveva disdegnato il cibo. Doveva trovarsi in preda a un penoso disagio. Al ritorno, sempre profondamente risentito, andò a sedere in un angolo mostrandomi il suo posteriore tondeggiante. Anche sua madre aveva l'abitudine di esprimermi il suo disprezzo a quel modo, ma Tigre era pur sempre un gatto bambino e dopo solo 10 minuti cedette alla tentazione della socievolezza, sazio e riconciliato si ritirò infine nell'armadio. Sbrigai il lavoro nella stalla, bevvi un po' di latte accompagnandolo con le mie focacce e nell'enorme pigiama di Ugo mi infilai a letto. Constatare che nella valle tutto fosse in ordine mi aveva fatto bene. Lo chalet si trovava al suo posto abituale e potevo perfino sperare che la vecchia gatta fosse ancora in vita. Da bambina avevo sempre sofferto della sciocca paura che tutto ciò che vedevo sparisse non appena gli voltavo le spalle. Nemmeno il raziocinio è servito a guarirmi completamente da quel timore. A scuola pensavo alla casa paterna e improvvisamente al suo posto riuscivo solo a scorgere una grande macchia vuota. Più tardi piombavo in un'angosciosa tensione nervosa se la mia famiglia non si trovava in casa. Mi sentivo realmente felice solo quando erano tutti nei loro letti o quando ci trovavamo tutti seduti attorno al tavolo. Sicurezza per me equivaleva a poter vedere e toccare. E lo stesso mi accadde anche quell'estate. Sull'Alpe mettevo in dubbio la realtà dello chalet e una volta scesa a valle, nella mia immaginazione l'Alpe si dissolveva nel nulla. Erano poi veramente tanto insensate le mie paure? La parete non era forse una conferma dei miei timori infantili? In una notte, la mia vita precedente, tutto ciò a cui tenevo mi era stata sottratta in modo sinistro. Se questo era stato possibile, tutto poteva accadere. Comunque fosse, mi avevano inculcato per tempo abbastanza disciplina e ragionevolezza perché soffocassi già sul nascere qualsiasi impulso del genere. Ma non so affatto se questo sia un comportamento normale. Forse l'unica reazione normale a tutto quanto è accaduto sarebbe la pazzia. Seguirono alcuni giorni piovosi. Bella e Toro brucavano nel prato cosparsi di minuscole goccioline grigie o riposavano uno accanto all'altra. Lince e Tigre dormivano tutto il giorno e io segai i rami secchi nella stalla. Fui costretta a scaldare la capanna. Mi è più facile rinunciare al cibo che al caldo e fascine e rami secchi ce n'erano in abbondanza. Le tempeste invernali li avevano strappati dagli alberi, sradicando le piccole piante insieme al ceppo delle radici. La sega l'avevo trovata sul posto, tagliava piuttosto male, ma i rami secchi si spezzettavano facilmente, per cui non feci molta fatica. Trasportai la legna all'interno della capanna e la catastai nella cameretta. Mi dispiaceva che Bella e Toro restassero senza strame, ma a quell'altitudine non esiste più bosco di latifoglio. La stalla, in ogni modo, era asciutta e pulita ed erano protetti dal freddo. La zangola, che avevo faticosamente trascinato a valle, me l'ero dovuta ricaricare in groppa per riportarla ancora più faticosamente fin lassù. Non potevo rinunciarvi. Bella dava tanto latte che durante l'estate volevo accantonare una provvista di burro fuso che poi lasciavo rassodare. Sull'Alpe il suo latte aveva preso un sapore particolarmente buono. Anche Tigre sembrava essere dello stesso avviso, tanto che aveva messo un po' di pancetta. Ogni tanto, mentre la strigliavo, raccontavo a Bella quanto fosse importante per tutti noi. Mi guardava con i suoi occhi umidi e mansueti, cercando di leccarmi la faccia. Non aveva la più pallida idea di quanto fosse preziosa e insostituibile. Eccola là, nel suo lucido pelo bruno, calda e tranquilla, la nostra grande e tenera madre nutrice. Potevo ripagarla solo avendo molta cura di lei e spero di aver fatto tutto quanto un essere umano possa fare per la sua unica vacca. A lei piaceva che le parlassi. Forse avrebbe amato qualsiasi voce umana. Le sarebbe stato facile calpestarmi o infilzarmi con le corna, invece mi leccava la faccia e premeva le froge nel palmo delle mie mani. Spero muoia prima di me. Durante l'inverno, senza il mio aiuto, andrebbe incontro a una misera fine. Ormai, nella stalla, non la tengo più legata alla catena. Se mi dovesse succedere qualcosa, potrà almeno sfondare la porta senza dover morire di sete. Un uomo robusto riuscirebbe a schiodare quel debole catenaccio e Bella è più forte di qualsiasi uomo robusto. Vivo giorno e notte con queste angosce. Anche se cerco di combatterle, tornano a rifluire in modo molesto in questa cronaca. Dopo il breve periodo di pioggia, mi restavano ancora poche settimane fino al taglio del fieno. Volevo approfittarne per riprendermi e rimettermi in forze. Tornò il caldo, una temperatura quasi estiva, ma solo attorno a mezzogiorno. A quell'altitudine le notti erano fastidiosamente fredde. Pioveva di rado, solo dopo i temporali, con scrosci violenti e abbondanti. Sull'Alpe, dopo un temporale, tornava subito il sole, mentre la conca della valle restava immersa nella nebbia ancora per giorni. Tutte le mie bestie prosperavano, felici della loro libertà, e così anch'io potevo ritenermi soddisfatta. Solo il pensiero della vecchia gatta mi tormentava ogni tanto. Mi feriva che preferisse vivere nello chalet solitario piuttosto che stare con me, a nutrirsi del latte grasso e la notte strisciare nell'erba alta a caccia di preda abbondante. Poco tempo dopo ebbi modo di convincermi che aveva veramente ritrovato la via di casa. Dopo una pioggia torrenziale scesi a valle per sarchiare il campo. Appena messo piede in casa, vidi subito la piccola cavità sul letto. La gatta non si fece vedere. Passai le mani sulla coperta fredda, sperando riconoscesse il mio odore. Non so se ne fosse capace. A quanto ho potuto osservare, l'odorato dei gatti non è particolarmente sviluppato. Il loro senso è l'udito. La carne che le avevo lasciato era intatta e rinsecchita. Avrei dovuto immaginarlo, era troppo sospettosa per accettare un pezzo di carne di cui non conosceva la provenienza. Le patate avevano fiori bianchi e violacei e dopo la pioggia erano cresciute abbondantemente. La gramigna si lasciò estrarre senza fatica dal terreno smosso. Rincalzai un poco la terra attorno ai cespi e così, prima di tornare allo chalet a preparare del tè e cucinare un pasto per me e per Lince, si fecero le tre. Raggiunsi l'Alpe solo verso le 7, con Bella e Toro ancora da accudire. Anche questa volta Tigre non aveva toccato il cibo né la sua cassetta e fuggì infuriato all'aperto. Mi resi conto che era una crudeltà rinchiuderlo. Non sarebbe mai diventato un gatto domestico. In futuro decisi di lasciargli aperta la finestra della cameretta. Forse, accorgendosi d'essere libero di andare e venire a suo piacere, se ne sarebbe rimasto tranquillamente a casa. Bella e Toro, invece, dovevano sempre restare nella stalla se mi allontanavo per tutta la giornata. Temevo potessero strappare la catena e precipitare lungo il ghiaione al limite del prato, nel caso qualcosa li avesse spaventati. Dopo aver rigovernato la stalla, quando anche il muto rancore di Tigre ebbe lasciato spazio a un umore più conciliante, potei finalmente distendermi. Le notti sull'Alpe erano sempre troppo brevi. Non sognavo. L'aria fredda mi accarezzava la faccia. Tutto pareva leggero e svincolato e l'oscurità non era mai completa. La luce del giorno durava a lungo, quindi andavo a letto più tardi di quanto facessi nella valle. Ogni sera di bel tempo sedevo sulla panca davanti alla capanna, avvolta nel mio loden, a guardare il cielo che a ponente trascolorava nel rosso del tramonto. Più tardi vedevo la luna levarsi nel firmamento sfolgorante di stelle. Lince stava sdraiato accanto a me sulla panca. Tigre, piccola ombra grigia, scivolava rapidamente da un ciuffo d'erba all'altro, rincorrendo le falene, e quando era stanco, veniva a raggomitolarsi sulle mie ginocchia sotto il mantello, facendo le fusa. Non pensavo, non ricordavo e non avevo paura. Sedevo immobile, appoggiata alla parete di legno, stanca e vigile allo stesso tempo, a contemplare il cielo. Imparai a conoscere tutte le stelle, pur ignorandone i nomi. Mi divennero ben presto familiari. Conoscevo solo Venere e l'Orsa Maggiore. Tutte le altre rimasero senza nome, quelle rosse, verdi, azzurrognole e gialle. Se socchiudevo gli occhi, vedevo gli abissi sconfinati spalancarsi tra un ammasso stellare e l'altro. Gigantesche voragini nere, dietro gli addensamenti di nebulose luminescenti. Talvolta usavo il cannocchiale, ma preferivo osservare il cielo a occhio nudo. Potevo così abbracciare il tutto. Guardare attraverso le lenti mi disorientava. La notte, che avevo sempre temuto e che spesso avevo esorcizzato con una luminaria da festa, sull'Alpe perse il suo aspetto terrificante. In realtà non l'avevo mai conosciuta prima, rinchiusa in case di pietra, dietro a tendaggi e persiane avvolgibili. La notte non era affatto tenebrosa. Era bella e cominciai ad amarla. Perfino quando pioveva e una coltre di nubi offuscava il cielo, sapevo che esistevano le stelle, quelle rosse, verdi, gialle e azzurre. Erano sempre lì, anche di giorno, quando non le potevo vedere. Appena calava il freddo e scendeva la guazza, rientravo nella capanna. Lince mi seguiva insonnolito e Tigre si avviava impettito verso la sua cuccia nell'armadio. Voltavo le spalle al muro e mi addormentavo. Per la prima volta in vita mia mi sentivo pacificata, non soddisfatta e felice, ma pacificata. C'entravano le stelle e il fatto di sapere finalmente che erano vere, ma per quale motivo fosse così non lo saprei spiegare. Era semplicemente così.